Voci in scena di Marta Cagnola. Buongiorno da Marta Cagnola, anche oggi con voi uno degli incontri con i grandi protagonisti della musica, del cinema, dei libri e della cultura, gli incontri di Voci in scena. L'intervista di oggi è di Elisabetta Fiorito. La vostra vista sola. Un'intervista sola. Vi piace il gorgonzola? Vi piace il gorgonzola? Ma cosa dite, Armando? Io sono devastata dall'amore. L'amore è un perverso folletto. L'amore è diverso sul letto, eh? Romano De Roma, attore, comico, regista, cantante, doppiatore indiscusso, protagonista di molti film e di numerose fiction televisive di successo, affabulatore, trasformista, conduttore televisivo, vero mattatore dello spettacolo italiano ancora oggi a 73 anni suonati. Ha interpretato di tutto, dal maresciallo Rocca a San Filippo Neri. Tra i suoi spettacoli più di successo ha Gli occhi please, Come mi piace, Prove per un recital. Dirige un proprio laboratorio teatrale, regista di opere teatrali, liriche e fonda nel 2003 a Villa Borghese a Roma il Silvano Toti Globe Theatre, gemellato con il Teatro di Londra per offrire al pubblico romano i capolavori di William Shakespeare. Da allora ne è il direttore artistico. Quest'anno cura la regia di Romeo e Giulietta in un allestimento tra il tradizionale e il contemporaneo. Lui è Gigi Proietti. E questa è la storia di un teatro che ha cambiato Roma. Siamo qui oggi al Globe Theatre a Villa Borghese, uno dei posti più belli di Roma e anche del mondo, dove Gigi Proietti, uno dei grandi del teatro italiano, ha a un certo punto ho avuto un sogno, fare il Globe Theatre, il teatro shakespeariano, nel bel mezzo di Villa Borghese a Roma. Fu così. Che anno era? Che anno correva Gigi Proietti? Correva, e purtroppo corrono molto gli anni. Comunque correva l'anno 2003 e quell'anno coincideva col centenario della donazione della Villa Borghese, che un tempo era di proprietà ovviamente della famiglia Borghese, della donazione di questa villa al Comune di Roma, che avvenne nel 1903, quindi il 2003 era il centenario. Il sindaco, allora era Veltroni, chiamò delle persone di spettacolo dicendo: facciamo per le celebrazioni, fate venire in mente qualche cosa da fare a Villa Borghese. E a me venne in mente di fare Giulietta e Romeo per i giovani, così. E però non c'era un teatro qua, no? E allora dissi: ma montiamo un palco, dissi, palco che poi casomai si rimonta ogni anno, dove i giovani possano esercitarsi nella recitazione classica. C'è in tutti, in molte capitali, non solo europee, a New York per esempio c'è Shakespeare in the Park, in estate si fa sempre Shakespeare. E portai le fotografie del Globe Theatre di Londra, perché io volevo, pensavo al palcoscenico, solo al palcoscenico. Il sindaco contattò la fondazione Toti, i fratelli Toti, che sono dei grandi costruttori romani, e chiese loro se sarebbe interessata una cosa. Gli è interessato, come si dice a Roma, cotta e magnata. Siamo partiti subito, praticamente prestissimo, nel giro di 4 mesi è nato questo affare. Come i funghi in mezzo al bosco, in una notte di mezza estate è nato. E a settembre ho esordito con Giulietta e Romeo, e quindi si è aperto ufficialmente il Silvano Toti Globe Theatre. E poi dopo è andata avanti la faccenda fino a in crescita continua, come dicono i colti, con un trend sempre in crescita. E la scorsa estate, per esempio, abbiamo fatto 51.000 presenze, molti giovani. Sono molto più interessati di quanto non pensassi prima io all'icona Shakespeare. Un po' saranno i film che sono usciti di Branagh, insomma. E un po' poi quando vengono però si trovano bene, stanno bene. L'ambiente è molto cordiale. Perché ti chiami Romeo? Rifiuta il tuo nome. Rinnega tuo padre. Oppure giura solo di essere mio amore e io non sarò più una Capuleti. Solo il tuo nome, mio nemico. Tu sei... tu... anche se non ti chiami Montecchi. Che cos'è Montecchi? Non è una mano, un piede, una faccia, un braccio, né nessun'altra parte di un uomo. Ah sì, un altro nome. Ma che cos'è un nome? Perché i nostri radioascoltatori non lo vedono, però è una struttura proprio fatto come era il Globe Theater, com'è il Globe Theater adesso fatto sulle rive del Tamigi, il teatro shakespeariano classico con un proscenio, poi ci sono le balconate, il pubblico viene diviso tra quello che erano i nobili nelle balconate al coperto e quelli che erano il popolo che stanno praticamente in platea, dove devono andare dove si siedono per terra, hanno dei cuscini e vabbè, noi abbiamo poi questi ricordi universitari in cui il pubblico di Shakespeare mangiava pollo, mangiava, beveva birra, eccetera. Qui c'è anche un bar e quindi c'è anche un aspetto goliardico. Che cosa succede dopo, dal 2003 al 2014, Gigi Proietti ritorna a Romeo e Giulietta? Sì, il vero ritorno è stato lo scorso anno, perché per 10 anni poi non l'abbiamo più fatta. Come spesso o sempre succede in quello che si chiama teatro d'arte, cioè teatro di repertorio, via così definito dagli antichi comici, quando si riprende uno spettacolo si modifica un po', si aggiusta, si lima, vengono nuove idee, si cambia qualche costume, eccetera, eccetera. E questo noi abbiamo fatto l'altro anno e ha avuto un tale esito per cui è chiaro che continuiamo, lo riprendiamo come apertura di stagione, perché ha molta richiesta, molta richiesta. Credo che il pubblico cominci a capire che è un teatro di repertorio. D'altro canto, se il repertorio è soltanto Shakespeare, per quanto sia sconfinato, però insomma, ha sempre dei limiti, per cui è chiaro che magari si fa, che so, molto rumore per nulla, o appunto lo stesso Romeo e Giulietta, può darsi che fra 2 o 3 anni se ne farà un altro completamente diverso, con una diversa regia, eccetera. E questa è la caratteristica tipica del teatro di repertorio, che non è solo italiano, ma anche il Globe di Londra fanno così, insomma, non c'è una differenza fra il pubblico che sta in platea, perché in platea a Londra è obbligatorio stare in piedi, ma a Roma ti pare che stanno in piedi? Ha subito accantonato l'idea col pubblico romano? Non si è, però poverini, i ragazzi stanno a vedere a volte, perché non tutti gli spettacoli sono commedie, o sono delle tragedie molto serie, molto impegnative. Beh, no, io non ho mai visto ragazzi che vadano via a metà. Stanno lì per terra a bocca aperta fino per 3 ore a guardare, che so, Re Lear. Su questo teatro sono state recitate, appunto, come ricordava lei, le grandi tragedie shakespeariane. C'è stato poi anche il Giulio Cesare recitato da Albertazzi, c'è stato il Re Lear, c'è stata una bisbetica domata piuttosto particolare con la regia di Carniti. Quali sono stati i momenti in questi 11 lunghi anni in cui lei a un certo punto ha sentito quell'emozione da organizzatore, ovviamente, perché c'era una serata così particolare, un attore che era magari un suo caro amico, però anche un grande mattatore come lei? Se parliamo di me, spettatore oltre che direttore artistico, il successo di pubblico più grosso l'hanno avuto Sogno di una notte di mezz'estate e il mio Giulietta e Romeo, proprio di pubblico. A me personalmente, per esempio, è piaciuto moltissimo il Re Lear fatto da Pagliai con la regia di Daniele Salvo, e anche un Riccardo III di Carniti, e poi una Tempesta, sempre con la interpretazione bellissima di Albertazzi, che faceva Prospero, sempre con la regia di Daniele Salvo. Ma questa rossa magia io adesso mi uno, spezzerò la mia bacchetta, ma seppellirò 1000 tesi sottoterra. Noi siamo fatti della stessa sostanza dei sogni, e la nostra breve vita si conclude in un sogno. Quindi sono state le cose più, ma ripeto, come spettatore a me, che anche se c'era troppa roba in scena, perché io vorrei che non si mettesse niente in scena. Come voleva Shakespeare, perché la scenografia lui la descriveva con la parola, no? Non metteva nulla. Lo spirito è questo, però come fai a negare, ma c'è dei giovani registi che vogliono mettere un po' di cose, un po' di aiutare un po' lo spettacolo, purché siano contenuti, non riempiano troppo, insomma. Io sono proprio per togliere, per semplificare. Lo dicono anche i politici, ma non ci riescono. Noi ci riusciremo, noi ci possiamo riuscire, quindi tanto vale. Se mi abbiamo fatto saltare la mosca al naso, vostri fatti. Sono tanto mali che non bisogna darmi peso. E poi sareste notti se mi metteste a biasimare. No. No. Una bocca. No. Un sogno. Allora ringraziamo Gigi Proietti per il tempo che abbiamo rubato alle prove di Romeo e Giulietta qui al Globe Theatre, e quindi ricordiamo che c'è un cartellone amplissimo ogni sera fino a settembre alle 9 di sera nella splendida cornice di Villa Borghese. Grazie. Prego, grazie a voi, è stato un piacere. Ed è tutto per la puntata di oggi di Voci in Scena, l'appuntamento è domani alla stessa ora.